Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio di una nuova settimana di Eclettica sulle frequenze di Rock FM, in compagnia di Giulio Caperdoni che ti dà il benvenuto. Una settimana, cosa che ho scoperto veramente pochi minuti fa, e sono onesto, non è che mi abbia fatto dispiacere, una settimana che sarà più corta del solito, infatti non andrò in onda come nessun altro il primo di maggio, quindi ci sarà un buco nello scaffale. Se andrai a cercare non troverai il volume 2, ci sarà il volume 1, il volume 3 e poi regolarmente il 4 e il 5, ma nel mezzo un buco, non cercarlo neanche nel podcasting. Ehi, guarda quell'uomo, aspetta, fa come se niente fosse, continuiamo a chiacchierare. Se si voltasse potrebbe vedermi e io non voglio che mi saluti. Ecco, adesso puoi guardarlo. Quello basso tarchiato con il cappotto dal collo di martora? Ma figurati, quello alto, pallido, con il cappotto nero che sta parlando con la commessa. Si fa incartare della scorza d'arancia candita. Strano. A me non l'ha mai comprata la scorza candita. Questo era l'incipit della Donna Giusta di Sándor Márai. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna suck to me? Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Sir, yes, sir. If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kikes, wops, or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved Corps. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sir, yes, sir. Musicale, la settimana si è aperta con il trio inglese che fa finta di essere un duo giapponese, come le avevo chiamate una volta, Fujie e Miyagi. Detto così, fino ad ora avevo sbagliato dicendo Miyagi, come il maestro di Karate Kid, Collarbone il titolo del brano che ci siamo ascoltati, e poi invece una interessante novità che arriva dalla Sicilia. Vabbè, l'idioma è diverso, ma sicuramente avete sentito sprazzi di Alma Megretta. Questo però è un disco d'esordio intitolato Calza, è il debutto del gruppo Unnadare, sempre che lo dica correttamente, per l'etichetta romana Mega Sound. Il brano che ci siamo ascoltati in Eclettica era Terra Russa Remix, ed ora invece è il momento di un gruppo che abbiamo cominciato a conoscere dalla volta scorsa. Loro sono gli Alex Delivery. Thank you. sign of decay. Smell of distilling in the stillness of the day. Attento lettore, questa è la storia di un cane. Innanzitutto sarebbe il caso di spiegare che genere di debolezza sia mai quella che nel corso della loro carriera coglie talvolta gli scrittori, persino i più sofisticati, e che li induce a distogliere la loro attenzione e i loro intenti creativi dall'eterno nobile modello, l'uomo, per volgerli verso creature di rango inferiore, verso i semplici figuranti che si muovono sul vasto palcoscenico del creato. Negli scritti ispirati al mondo animale si avverte un tono di condiscendenza. Il poeta si degna di abbassare benevolmente lo sguardo verso le sfere infime dell'esistenza, forse perché è ormai sconcertato, disgustato dalla tragicommedia che egli contempla dalla sua prospettiva di bipede. Ma è pur sempre con bonarietà, con indulgenza, che getta il suo sguardo accigliato verso uno dei gradini inferiori della gerarchia del creato, dal quale lo osserva un essere di disarmante innocenza, un suo lontano e primitivo parente, l'animale. Ah, il cane, pensa con indulgenza. Poi gli fa un fischio ed escono insieme a passeggio. Questo era l'incipit di Trucciolo di Sandor Marai. As the sun rose up into the sky and all I could hear was birdsong. And the hackneyed tones of Radio One, I knew something was wrong. And as I lay and tried to remember, with tightly closed eyes, I felt soft, warm fingers trace a course from the small of my back to the inside thigh, bite your lip. Pretend you're asleep. In bed with your girlfriend again. I recall a bottle of vodka in Pastor Mine's friend. And a strange party piece with a Swiss Army knife with me and your girlfriend. Is she your wife? I know my bedroom's white and this one's green, with posters of bands I hate. And there's a whiff of petunia, and I know it's not me. An air of and as a breast or two squash into my back, a rambling yawn floats over. And it smacks me in the mouth just what this is all about. Best friend, I've never done.